Si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a te Carlo, come stai? Molto bene, buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori domenicali. Carmelo Lauricella in regia, Lorenzo Nespoli in assistenza. Io ieri avevo tutti i mali del mondo, allora alla fine ho deciso di fare una cosa, non so se tu condividi, siccome ormai le misure, no, da intraprendere di igiene e sicurezza le sappiamo tutti, ho fatto un blackout informativo, ho spento tutto e mi sono dedicata a questioni domestiche o comunque a pensare ad altro. E avevi candeggina in casa? Avevi la mucchina in casa? Se hai tutto, allora sei una di quelle che ha svuotato i supermercati. No, assolutamente no. Quello che avevo è rimasto. Non ho comprato niente di nuovo, appunto, proprio perché le misure, no, sono note. Giusto. Non c'è bisogno di esagerare, c'è bisogno di avere prudenza e di non farsi mettere in allarme. Allora ho deciso che, appunto, per non farsi mettere in allarme, la cosa migliore era un chiudere, spegnere le allarmi. Spegnere le allarmi. E poi giustamente ci stai giustamente ricordando che tu la candeggina la usavi anche prima, non è esattamente che sì, hai non ci dovuto faccio il aspettare. Bagno tra l'altro, no? Quindi mi dura a lungo di solito, insomma non c'è bisogno di usarne litri e litri adesso. Giusto. A differenza di prima. Oggi è la giornata in cui si indovina il personaggio della settimana, personaggio, personaggia, oppure cosa, oppure situazione, ricordiamo, anniversari, abbiamo fatto veramente un po' di tutto. Tutto, uomini, donne, cose, la luna, i razzi. Esatto, e si fa attraverso il numero verde 824 0024. Cosa si fa? Si telefona, ci si prenota, noi adesso diamo un indizio, ci si prenota e noi appena riusciamo ovviamente vi diamo la parola e vediamo di regalarvi due biglietti per il MUDEC, quella mostra che tu sai tanto bene. Erwitt. Bravissimo. La mostra di Erwitt, vi ricordiamo solo che ovviamente il personaggio deve avere una notizia legata, avvenuta in questa settimana, perché ve la chiediamo. Sì, quindi bisogna anche sapere un po' argomentare, ecco, non bisogna sparare un nome a caso, esatto, insomma, bisogna dire perché. 824 0024 il numero è attivo fin da ora, poi c'è quello per gli SMS e i WhatsApp 349 238 6666, questo serve per intervenire con le vostre opinioni nella trasmissione. Poi si può anche fare il numero verde se anche lì avete da argomentare qualcosa, però insomma, ecco, per certo. SMS e WhatsApp quello è sempre il solito. Di cosa ti sei dilettato questa settimana? Cosa ti ha accompagnato negli ultimi sette giorni? Cosa mi ha accompagnato? Forse un po' come te, che hai voluto chiuderti in casa e non stare troppo attenta agli allarmi, un po' uguale io ho iniziato a leggere Il sussurro del mondo di Richard Powers, che è il Man Booker Prize 2018 e Pulitzer 2019, in Italia edito da La Nave di Teseo. Sono a 650 pagine, io ne ho lette 200, mi sta piacendo molto, ma non ne parlo finché non l'avrò finito. però esatto, dico solo che è un romanzo in cui i veri protagonisti sono degli alberi. Come tutti i buoni libri, sta agendo su di me ancora prima che lo legga tutto. Infatti sono inconsciamente interessato agli alberi e io non lo sapevo. Io sono un cittadino, non presto attenzione alle piante, non ho nessun fascino per la botanica, so giusto riconoscere il nespolo, la magnolia e pochi altri arbusti perché hanno avuto un ruolo nella mia vita. Eppure ho divorato il libro di cui vi parlo oggi, La storia degli alberi e di come hanno cambiato il nostro modo di vivere, edito dall'Ippocampo, che troverete in libreria dal 5 marzo. Intanto è un bellissimo oggetto, è scritto da Kevin Hobbs e Davis West e con illustrazioni ad ogni pagina di Thibaut Herem. Sembra un po' un'enciclopedia degli alberi, se vogliamo, ma sono solo 100 quelli di cui parla. E poi ti fa capire quanto sono stati fondamentali gli alberi per l'intera umanità. Detto chiaro, senza alberi noi non ci saremmo mai stati e io ammetto l'ignoranza. Non lo sapevo. La storia degli alberi è la nostra storia. Il primo albero conosciuto è comparso su questa terra 400 milioni di anni fa, cioè quasi 150 milioni di anni prima della comparsa dei dinosauri. Eppure gli alberi hanno da sempre influito sul nostro modo di vivere. Pensate, non so, ai primi strumenti in legno costruiti 170.000 anni fa dall'uomo di Neanderthal, senza albero, niente materiale. Pensate alle funi, le corde, pensate ai frutti che abbiamo mangiato, pensate alle navi di legno, alla ruota anche, pensate alla gomma, pensate al sughero, pensate anche al combustibile fossile. Insomma, praticamente potete pensare a tutto. Leggendo queste brevi schede di un centinaio di alberi, non ci si crede a quanto dobbiamo loro. Mi è piaciuto tantissimo, è un libro che si può spiluccare alla bisogna e parla del nostro rapporto con i più importanti alberi del mondo, ed è un'introduzione semplice, affascinante e tanto efficace a questo mondo che io, sporco cittadino insensibile, mi sono già comprato altri 3 libri che parlano di alberi e sicuramente finirò Il sussurro del mondo. Se vuoi te ne porto anche qualcuno, perché ne abbiamo ricevuti qui in redazione, quindi se ti appassioni molto al tema alberi possiamo andare avanti sicuramente. Nelle prossime settimane, appunto, ti porto e tu continui a leggere e poi ci racconti quali sono le tue preferenze. Perché insomma, noi spesso parliamo di alberi, l'importanza di piantare gli alberi, però ammetto che io non è che fossi un conoscitore proprio della materia, e dico materia e sì, sono affascinato. Adesso arriverai anche al capitolo sulla CO2, perché adesso parliamo di alberi perché dobbiamo contrastare, no? Giustissimo. Benissimo, sono molto contenta. C'è un ascoltatore che dice: ma il MUDEC non è chiuso. Ma non è chiuso per sempre, a parte che non sappiamo se è chiuso questa settimana o no, perché siamo in attesa di vedere quello che sappiamo succederà. Sappiamo delle scuole, giusto? Dillo tu che sappiamo sei più informata di me. Sappiamo per ora delle scuole, dopodiché vedremo quello che succederà. Si attende quindi ancora, diciamo, la circolare su quanto riguarda anche i cinema, credo anche i teatri, cinema, le attività palestre sportive. Almeno siamo fermi su questo punto, non abbiamo né in una direzione né nell'altra. Quindi il MUDEC, e poi comunque anche se è chiuso domani mattina, lunedì, non so se volevate venire il lunedì, chi vincerà, però questo mi ricorda che non abbiamo dato l'indizio, Carlo. È vero. Parliamo di alberi e ci siamo distratti. Ci siamo persi. Vai Laura, primo indizio. Il primo indizio per il personaggio del giorno: il suo futuro è pieno di sfide. È pieno di sfide. 824 0024 per indovinare, per dare la risposta appunto all'indovinello del giorno. Intanto ti presento la nostra prima ospite di giornata, Flavia Guarino, buongiorno. Buongiorno. Flavia Guarino è la presidente di Restart, a Safe Space for Music Minds. Allora, l'hanno scelto di metterlo in inglese perché tante volte la musica parla inglese anche in Italia, ma è un progetto molto italiano, no Flavia? Sì, è il primo sportello in Italia di supporto psicologico per musicisti e addetti ai lavori. Dunque, un appunto supporto psicologico per musicisti che in questo periodo specifico, a proposito di coronavirus, che è un periodo nel quale sono state annullate molte manifestazioni e moltissimi concerti, e poi pensiamo anche a tutto quello che succede nei locali, no? Dove si suona, dove quindi un musicista lavora, ovviamente. Abbiamo letto tra l'altro delle cifre, oltre 10 milioni di euro per la settimana scorsa sono andati bruciati, quindi in questo periodo specifico, oltre al lavoro tradizionale, avete affiancato un lavoro di supporto per coloro che, diciamo, sono coinvolti in questa emergenza. Sì, esatto, chiaramente il supporto, abbiamo fatto partire la scorsa settimana in uno sportello d'emergenza via Skype, dal momento che noi abbiamo un team di circa 7 psicologi che operano con noi, abbiamo deciso di offrire questo servizio che si basa praticamente sull'inserimento dell'indirizzo all'interno della famosa piattaforma di comunicazione online, e per poter parlare in maniera immantinente con uno dei nostri operatori che può dare un supporto. È un po' come se fosse un telefono amico. Ma che tipo di domande, di questioni vi vengono poste da questi musicisti che chiamano appunto? Ma in realtà non sono principalmente musicisti, sono principalmente addetti ai lavori del mercato discografico e musicale, che sono quelli che stanno risentendo di più del problema in questi giorni, soprattutto gli addetti che vengono dal mercato del live, che si trovano appunto a fronteggiare sia una perdita economica considerevole, ma anche uno sfasamento di quelle che sono le normali dinamiche del lavoro. perché basti pensare che si vive sul chi va là anche in questi giorni, anche oggi soprattutto, che ancora non si sa cosa si farà settimana prossima. Chiaramente per un operatore che lavora nel mercato dell'intrattenimento, in particolar modo del live, che è la sua principale forma di reddito, diventa tutto molto più liquido, molto più instabile. Ma mi scusi, ma come mai una scelta così specifica, cioè addirittura solo gli addetti ai lavori del mercato del live della musica? Perché io sono un agente booking in realtà. Quindi, quindi faccio un breve excursus. Brevissimo, perché abbiamo 3 minuti. Sì, brevissimo. Noi abbiamo cominciato a fare questo, ad avere l'idea di questo progetto quando 3 anni fa abbiamo conosciuto Music Support UK, che è uno dei primi sportelli di supporto psicologico per musicisti addetti ai lavori. Era un momento storico in cui il dialogo sulla mental health si stava molto più aprendo in Italia, e ci siamo detti: perché non fare una roba del genere anche in Italia? No, ma io mi scusi, le chiedo questo, nel senso che sono contentissimo, non è che volevo arrivare al punto di dire ci sono dei problemi più grandi, perché non sono mai uno che pensa che questo sia una buona scusa per non fare niente, dire ogni volta c'è un problema più grande. Quindi sono felicissimo che ci sia questo sportello, non era una critica. La cosa che mi chiedevo era come mai, nel senso che immagino che non ci sia uno sportello solo per carpentieri, solo per idraulici, solo per le partite IVA, e quindi mi chiedevo come mai, se voi avevate anche delle esigenze specifiche. In realtà sì, perché ci sono delle esigenze specifiche e delle patologie, soprattutto per quanto riguarda l'ambito del disagio mentale, tipiche di chi fa questo tipo di lavoro, che possono essere una particolare forma di sindrome dell'impostore, anche le varie dipendenze possono essere diverse, se affrontate da un addetto anziché da un carpentiere che si trova a vivere una situazione lavorativa sicuramente diversa, o da qualsiasi altro mestiere. Quindi la specificità sta nel fatto che io non sono una psicologa, sono un'addetta ai lavori che si è votata alla filantropia, ma le nostre psicologhe e psicologi sono persone che sono competenti dell'ambiente musicale, quindi conoscono perfettamente l'argomento e possono gestire l'argomento al meglio. E magari trovargli anche lavoro. No? Esatto, già che ci si sente, uno dice: ma senti, tu suoni la chitarra, perché io suono il piffero, magari ci mettiamo insieme, no? Esatto. Beh, almeno ci si capisce. No, quello è ottimo, e anzi è uno dei buoni motivi per cui farli un po' di settore. Non so se abbiamo ancora tempo, perché era bello sentire quali sono le critiche, i problemi maggiori dei musicisti. Beh, ce ne dica uno, dai che abbiamo la viabilità, ce ne dica uno di questi problemi. Allora, per i musicisti sicuramente c'è una grandissima ansia da prestazione e una mancata divisione tra quello che è l'ambito pubblico e quello privato. Mentre per gli addetti ai lavori il problema più grande è la sindrome dell'impostore. Ma quella ce l'abbiamo un po' tutti, posso confessarle tutti, questa cosa, come anche direi il desiderio di essere molto bravi, quindi va bene, la ringraziamo moltissimo. Grazie, allora buon lavoro. Grazie, buon lavoro, Restart. Ricordo Flavia Guarino, abbiamo la viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Andiamo a un altro tema molto sentito, la questione animali da compagnia, animali domestici, è molto, come dire, vicina ai nostri ascoltatori, ma in generale nel nostro mondo, no? Ormai abbiamo finalmente tirato fuori un problema che è quello del rispetto e del giusto trattamento degli animali che vivono con noi. Purtroppo ci sono moltissime segnalazioni in segno opposto, cioè tantissimi maltrattamenti. Leggo dati del 2018. Del rapporto della Lega Antivivisezione confermano che ogni 55 minuti viene aperto un fascicolo per maltrattamenti o violenze o comunque reati contro gli animali. In totale 26 fascicoli al giorno, 16 indagati al giorno, quindi uno ogni 90 minuti fa, ma ci sono delle leggi per contrastare questo fenomeno e c'è anche il primo studio legale che tutela i diritti degli animali. Giada Bernardi, avvocato dello studio legale Giustizia Animale di Roma, buongiorno. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Allora, come vi è venuta l'idea? Voi siete il primo. Stavo dicendo bau. No. Sono un cliente, bau. Miau. Perfetto, ben accetto. Io qui ce n'ho tre di clienti, quindi se sentite bau sono loro. Perfetto. L'idea, diciamo che era nell'aria già da un anno, perché sia io che Aurelia, che Rosaria, che Gregorio ci occupiamo da tantissimi anni, ognuno per sé e anche lavorando insieme in alcuni casi, per tutto quello che riguarda la tutela degli animali e dei loro diritti. Io ho all'attivo al momento un centinaio di denunce su tutto il territorio italiano per maltrattamenti di animale. Quanti? Un centinaio al momento. Ah. Ma di che tipo di maltrattamenti stiamo parlando? Nel senso che stiamo parlando di chi ha un allevamento? Stiamo parlando di uno che dà una sberla al proprio cane o stiamo parlando di abbandono? Parliamo di cani lasciati magari in terrazzo 24 ore su 24, di cani tenuti per una vita alla catena, una catena lunga 10 centimetri e tanto stretta da provocare da tagliare la carne, parliamo di cani uccisi con 17 mannaiate, parliamo di cani avvelenati, parliamo di cani legati alla macchina. Ecco, questo diciamo il quadro generale. No, scusi, volevo chiarirlo per i nostri ascoltatori, sennò magari benissimo. Qualcuno pensa che stiamo parlando di qualcuno che dà delle crocchette non troppo buone al proprio gatto e si spaventa, ecco, per questo lo dicevo. Lo sa che c'è purtroppo quello che è chiamato il mondo, da una parte del volontariato animalista ed il mondo animale, sembra da una parte rose e fiori, ma dall'altra vi garantisco che non lo è, perché ci sono talmente tante problematiche sotto legate e alla gestione dei canili, alcuni dei quali, molti dei quali purtroppo sono i cosiddetti canili lager, nei quali i volontari non possono entrare, di cani ci muoiono in condizioni veramente inenarrabili. Vuoi al traffico di animali, spesso mascherato da adozioni che partono verso l'estero, vuoi... per il volontario che purtroppo tra tantissimi ottimi che io ringrazio, perché veramente la rete del volontariato italiano è meravigliosa, ma ce ne sono anche tanti marci che ti fanno passare l'adozione come uno scambio, e ti do il cane però se hai avuto tante spese alla fine escono fuori 600 euro, quindi ci sono tante tante sfaccettature sconosciute più e nota che purtroppo è dentro. E chi ci rimette sono soltanto gli animali, anche le normative non ci aiutano purtroppo. No, perché appunto invece mi era sembrato di capire che qualche cambiamento fosse intervenuto negli ultimi 10 anni. Sicuramente un'evoluzione c'è stata, e quella che io considero sempre la svolta nella tutela degli animali è la sentenza del Tribunale di Paola, che condannò duramente e col massimo della pena, che ai noi è sempre bassissima, l'uccisione del cane Angelo, immagino che ve la ricordiate. Quella fu una sentenza esemplare. Onestamente, guarda. No, ci ricordi assolutamente la storia. Angelo era un meticcio buonissimo, un meticcio di paese, preso da tre ragazzi, portato in macchina nella campagna giù in Calabria, vicino a San Gineto, impiccato a un albero e ucciso a bastonate. Ripreso col telefonino mentre moriva e mentre veniva ucciso, la cosa peggiore era che il cane fino all'ultimo ha stato insolato. Sì, quindi veramente fece scalpore, fece rabbrividire tutta Italia, perché proprio il contrasto fra la cattiveria inaudita, gratuita e cieca di questi tre ragazzi. Perché noi cosa ragazzi, è successo a quei ragazzi? Sono stati condannati al massimo della pena prevista per il maltrattamento e l'uccisione d'animale, che poi sono 18 mesi e non è niente, ovviamente non è nulla perché non andranno mai in carcere, con la pena sospesa e l'obbligo di svolgere attività sociale nei canili. Comunque hanno una pena di 18 mesi, quindi se commetteranno un altro reato, peserà questo, nel senso peserà sicuramente nel calcolo. Però uno dei problemi del nostro paese è che ci sono le leggi a tutela dell'animale, è vero che non ci sono delle leggi ancora a livello europeo o una normativa organica, ci sono tanti regolamenti regionali, ma non ci sono pene severe. Cioè, il maltrattamento dell'animale, l'uccisione dell'animale è una mancanza enorme di sensibilità, di umanità e di rispetto nei confronti della vita, e il passaggio da maltrattare un animale a maltrattare un uomo è veramente minimo. Quindi c'è proprio da sanzionare la condotta, oltre che tutelare questi meravigliosi compagni di vita che abbiamo, inasprire le pene e soprattutto cambiare il codice civile, perché gli animali ad oggi sono considerati come oggetti e non già come soggetti. E questo è molto limitativo e a mio parere molto offensivo, perché sono esseri viventi, non sono cose. Giustissimo, giustissimo. Mi scusi, però in realtà non sono considerati solo oggetti, perché se uno maltratta un oggetto non si becca 18 mesi di carcere. Il problema è che se io do un animale ad una intenzione, la pensione lo gestisce male, il cane riporta delle lesioni, purtroppo, come è capitato, decede per muore dissanguato. Io ho un caso di una pensione su a Nord Italia, dove il cane veniva dato in stallo. Stallo, per chi non lo sapesse, è lasciare un cane o in una pensione, un cane in attesa di adozione, o in una pensione a pagamento o presso un privato a pagamento. Quindi è un contratto di deposito a titolo oneroso, perché c'è un corrispettivo di denaro. Certo. È però un contratto di deposito. Quindi quando io vado in albergo non sono un deposito, sono una persona che va in albergo e paga giustamente il corrispettivo per i servizi che ha. Il cane viene depositato, quindi l'azione penale che io ho dovuto fare è stata per mala custodia dell'animale, e l'azione civile per violazione delle norme che l'ordinamento e il codice prevedono a tutela del deposito oneroso. Quindi l'animale viene visto come un oggetto da custodire. Certo. E questo è da cambiare. E questo è da cambiare. Allora, su questo punto ovviamente lei e voi in generale insisterete. Noi avevamo una serie di domande un po' più, diciamo, forse basse come livello, però... No, ma le faccia pure, perché sì. Sono, guardi, quelle che rimangono più impresse, e mi permetta, nessuna domanda è mai bassa, anzi. No, va bene, però erano piccole curiosità, ecco, per esempio, addirittura, quella che riguarda i circhi, era una questione che ci eravamo posti tutti noi lì, che stanno via via chiudendo, tra l'altro, sì. I circhi con gli animali, e questo è un filone, però lì chi interviene, per esempio? Cioè, come succedono, no? Qual è la catena per la quale poi si riesce a... liberare certi animali maltrattati in certe situazioni? Il percorso riferito tanto ai circhi quanto alle situazioni più diciamo normali, non normali, ma cioè lo stesso comuni. Percorso, per esempio, sì. Quello che lei mi diceva dello stallo prima, del, no, della pensione, sì. E sì. Anche del cane in terrazzo. Chiunque abbia il cane in terrazzo, glielo ripeto, perché purtroppo ultimamente sta andando in giro, si sta dilagando la moda di tenere il cane in terrazzo. Le persone prendono il cane vive in terrazzo 24 ore su 24, molto spesso senza la cuccia, a volte senza acqua e senza uscire. Sono stati tantissimi i casi che ci sono stati segnalati e poi risolte grazie all'intervento delle guardie zoofile. Noi personalmente lavoriamo con i vigili urbani, con la polizia locale, perché la polizia locale è preposta per legge alla tutela degli animali randaggi o a cui fare l'organo a cui fare segnalazioni in caso di maltrattamento. Poi lavoriamo molto con le guardie zoofile del gruppo NOA. Quindi l'iter è questo: chiunque abbia notizia o abbia o sia a conoscenza di una situazione di maltrattamento di un animale deve chiamare i vigili urbani, e anche se vi dicono che non possono intervenire, insistete, perché devono intervenire. Capita spesso che dicano non possiamo intervenire perché con le pattuglie impiegate in altro servizio. Insistete perché devono intervenire. In difetto, ma non conviene. Ma come mai il terrazzo è così grave? Nel senso che non è meglio avere un cane in terrazzo piuttosto che nel proprio appartamento chiuso? No. Perché no. La Cassazione ha statuito che detenere un cane in terrazzo 24 ore su 24 integra il reato di maltrattamento di animale. Soprattutto, ripeto, quando non c'è una cuccia, quindi un riparo, la cuccia dovrebbe certo. Essere di dimensioni adeguate alle dimensioni dell'animale, soprattutto rialzata, e che permetta al cane di ripararsi in caso di pioggia o di vento. Ci deve essere sempre una ciotola d'acqua e del cibo, e il cane deve avere la possibilità di entrare e uscire liberamente da casa. Molti vivono relegati in terrazzo. L'ultima notizia che ho avuto è di un cane che vive perennemente in terrazzo, peraltro fra i suoi escrementi, perché non lo portano fuori, e la notte addirittura, per evitare che abbai, cosa fanno? Lo fanno entrare in cuccia e gli mettono un secchio davanti in modo che non esca. Allora, avvocato, noi la ringraziamo perché dobbiamo salutarci, però insomma il primo step è sempre insistere affinché arrivino i vigili, affinché venga la polizia municipale a certificare quello che accade. Abbiamo GR24, ci risentiamo subito dopo. Si può fare. Il segnale orario vi è offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. Axerta.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. E allora, come tutti ben sapete, come tutti noi sappiamo, oggi è la giornata dell'indovinello e abbiamo in collegamento la nostra prima ascoltatrice che vuole provare a capire quale sia il personaggio della settimana, il cui futuro è pieno di sfide. Alessandra D'Ancona, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Alessandra. Buongiorno, buongiorno. Allora, ci dica, allora, secondo lei? Sì. Ma ho pensato al coronavirus, per questo motivo qua, che dalla mucchina fatta in casa ai più grandi centri di ricerca, laboratori, eccetera, eccetera, sono tutti alla caccia del coronavirus e anche, diciamo, il sistema immunitario di ciascuna persona è una sfida per il coronavirus, quindi il coronavirus avrà davanti a sé tantissime sfide da affrontare. Ah beh, sì, sì. Vista dal punto di vista del coronavirus. La spiegazione direi è straordinaria. Qual è la notizia legata al coronavirus? Non glielo possiamo chiedere perché non si è parlato d'altro tutta la settimana. Infatti, quindi mi sentivi in una botte di ferro. È giusto, risposta. Sentiamo il notaio. Vediamo. Diciamo che una cosa che si può dire è che solitamente scegliamo dei personaggi vagamente più positivi. La mia prospettiva era molto positiva perché volevo dire il coronavirus avrà sicuramente una vita talmente difficile perché appunto ciascuno di noi, ciascuno sistema immunitario cerca di combattere il coronavirus e quindi presto, molto presto... Insomma, le ore contate. Giusto, ha ragione. Ma ha sbagliato. Più si può fare di noi e la ringraziamo moltissimo. Grazie mille. Grazie a voi. Buona domenica. E allora adesso andiamo ad affrontare un'altra questione di cui si discute di nuovo a Firenze, cioè una questione di opportunità. In realtà poi non parleremo di questo, ma il nostro ragionamento è partito da questo. Parliamo infatti di cose bellissime. Di cose bellissime ed è tutto partito da questa notizia di cui si è tornati a parlare sui quotidiani appunto fiorentini, l'opportunità o meno di costruire una funicolare tra il giardino di Boboli e Forte Belvedere, il che fa parte di un progetto di riqualificazione dell'ex caserma Vittorio Veneto che è stata acquistata da un magnate argentino, il quale magnate argentino per i suoi futuri clienti, visto che lì ci vuole fare un resort, vorrebbe anche la funicolare. Allora, si fa o non si fa un intervento di questo genere in un'area storica? Allora, noi non di Firenze, ma insomma a partire da questo vogliamo parlare con Andrea Maspero, che è l'amministratore delegato della Maspero Elevatori, che ha una fortissima esperienza mondiale sulla questione appunto elevatori, scale mobili in aree preziosissime. Ad esempio l'ultima gara che hanno vinto li porterà a costruire direttamente ad Atene per l'Acropoli. Che è una notizia straordinaria perché come sappiamo quelli che sono andati all'Acropoli è una scarpinata lunghissima e tra l'altro penso che potrebbe essere uno degli ascensori più belli del mondo visto la vista che ci sarà. Esatto. Ecco, direi che loro sono specializzati negli ascensori più belli del mondo. Buongiorno Andrea Maspero. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie per una magnifica introduzione. No, beh, è vero, insomma, noi vediamo tra le vostre realizzazioni, quelle alla Sagrada Famiglia, poi dopo a Mosca in questo GES 2 che è una ex centrale elettrica che è stata riqualificata, adesso arriverà l'Acropoli, insomma, veramente tra i posti più belli del mondo. Come si arriva, no? Come sarà questo progetto? Intanto cominciamo da Atene, come sarà questo progetto? Allora, da Atene questo progetto è un progetto ovviamente innovativo che serve per collegare la parte bassa dell'Acropoli con la parte superiore. serve per permettere di fruire anche le persone che hanno dei problemi di mobilità di arrivare fino in cima e di godere poi del monumento. Ma anche per gli sfaticati o solamente per chi non può fare? Penso sia per tutti, per gli sfaticati. Perfetto. E per coloro che non possono Perfetto. Muovere. Non c'è un test in ingresso. Vedere, sì. No, perché in realtà quando l'avevo letto la notizia mi sembrava straordinaria, perché ovviamente dà la possibilità a chi è in carrozzella, che sennò sarebbe credo impossibile in altra maniera. Però poi volevo buttarmi dentro anch'io, ecco, ammetto. Certamente. Allora, quali sono i problemi a lavorare in questi siti? Al di là del fatto che poi siamo contenti quando c'è la realizzazione, viene utilizzata, però sicuramente vi pongono, immagino, molti vincoli con le sovrintendenze. I vincoli sono quelli poi comuni in tutto il mondo, non è più difficile che lavorare in Italia. Ogni paese ha la sua peculiarità. Ah, okay. In questo caso abbiamo avuto molti incontri con i ministeri della cultura, con il ministero apposta per l'Acropoli, il mondo è paese. Tutto il mondo è paese, quindi attenzione al telefono perché appunto la sentiamo. È in ascensore? Come? È chiuso in un ascensore perché la sentiamo male. Io non riesco, sono fermo a Roma. Ah, ok. Vabbè, sarà un vincolo della sovrintendenza. Allora... Muri spessi, probabilmente sì. Quindi lei ci diceva, insomma, un po' tutto il mondo è paese, non è che siamo peggio di altri, come a volte veniamo dipinti. Assolutamente no, anche se il periodo che viviamo sta dando forse il peggio del paese. Mi riferisco a quello del coronavirus. Certo. Mm. Ma questo perché vi dà anche difficoltà adesso nello specifico del vostro lavoro? Esattamente, noi lavoriamo con tutto il mondo e per esempio in questo momento hanno annullato una visita di alcuni clienti russi che dovevano visitare la nostra azienda. Che dovevano venire dalla Russia in Italia? Esattamente. E non potete neanche andare voi? Adesso lo so, noi mi rendo conto, però... Organizzeremo, infatti, faremo qualcosa del genere per cercare di sopperire a queste cose. Dunque, questo tipo di progetti, adesso non voglio farla entrare sullo specifico di Firenze, ma questo tipo di progetti che voi realizzate è più rivolto verso l'estero, cioè là si fanno meglio o è uguale in Italia uguale, o all'estero? È uguale, voi parlavate prima del progetto di Boboli, ma le funicolari sono una tradizione che nasce dalla fine dell'Ottocento. Molte città italiane sono dotate di questo sistema di trasporto. Capri, Orvieto. Certo. Forse in questo momento ci sono un po' meno soldi in Italia e ci sono più persone all'estero che investono in questo tipo di opere. Stiamo facendo dei progetti interessanti in Italia. Per esempio ne stiamo completando uno a Riva del Garda, oppure altri progetti molto interessanti furono fatti per esempio al Forte di Bardo. Al Forte di Bardo in Val d'Aosta. Esattamente. Sì. E questo di Firenze è un buon progetto o lei cosa ne dice? A mio avviso è un buon progetto. Perché può collegare due parti della città che sono potrebbero essere collegati con un trasporto moderno, se vogliamo anche romantico, perché ha radici storiche molto antiche, come dicevo prima, ed è interessante perché può essere utilizzato non soltanto da coloro che usano l'hotel, ma anche dal resto del traffico. Esatto, questo è forse il punto, nel senso che siccome si vuole costruire un grosso albergo di lusso, qualcuno dice quella funicolare lì, quel tipo d'ascensore verrà usato solo da loro, invece si risponde che l'ascensore sarà per tutti. Esattamente. Si deve avere un'accortezza, immagino, specifica di volta in volta sul panorama nel quale ci si inserisce. Certamente, ogni progetto ha la sua peculiarità, deve avere un basso impatto estetico oppure al contrario deve valorizzare al massimo l'estetica dei luoghi, dipende molto dalla scelta che si fa, alcuni lo preferiscono nascosti, alcuni lo preferiscono evidenti, dipende da quello, l'obiettivo che si tende per seguire. Certo, senta, dobbiamo salutarci, ma le devo fare una domanda stupidissima perché mi sono ripromesso di farla. Siccome lei è uno dei più grandi esperti di ascensori del mondo, ci dà un consiglio di che cosa parlare in ascensore, che c'è sempre quel momento di imbarazzo no. In cui non si sa che cosa dire? Dipende con chi si viaggia. Vabbè, si viaggia con una bella donna, giusto? Molte considerazioni. Però è molto grave questo, perché lei dice la bella donna perché sta al chiuso, perché così non può scappare. Esattamente, eh. Poi è l'occasione per conoscersi meglio. Va bene, la ringraziamo bene. Molto. Grazie a tutti voi. Grazie, buona giornata Andrea Maspero, buon lavoro e speriamo appunto per lui e per tutti gli imprenditori le questioni si risolvano rapidamente e si sblocchino da un punto di vista almeno del lavoro e poi ovviamente si stabilizzino per tutti noi, per la salute. Allora abbiamo la viabilità, a tra pochissimo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed ecco un altro concorrente per il nostro indovinello, un'altra signora, Angela da Como, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno. Il suo futuro è pieno di sfide, di chi? Io ho pensato così d'amblè, istintivamente, a Parmitano, Luca Parmitano. Sono andata... così al di fuori del pianeta terrestre, non so perché ho pensato a una stazione spaziale a lui. Mm-hmm. Ecco. C'è qualche notizia della settimana che ha fatto pensare a Luca Parmitano? No, in verità, ripeto, non c'è stato nessun ragionamento particolare, così mi è venuto, ho pensato a lui immediatamente. Ok, sentiamo un po' che cosa ci dice. Ha fatto bene, ha fatto comunque bene a chiamare, perché... sentiamo il notaio. Purtroppo non è la risposta esatta, ma noi siamo sempre contenti di ricordare Luca Parmitano, di salutarlo e quindi la ringraziamo e molto. E di ringraziare e salutare anche Angela, buongiorno a lei, buon proseguimento. Grazie, buon proseguimento a voi, grazie, buongiorno. Buongiorno. Ti diamo posso leggere un messaggio? Ah no, diamo un secondo indizio, hai ragionissimo. Diamo il secondo indizio. Allora, il nostro personaggio in questi giorni si sta dando un gran da fare, oltre che il suo futuro è pieno di sfide. Volevo leggerti un sms che mi ha fatto ridere. Se Dante fosse ancora vivo, aggiungerebbe la Divina Commedia un nuovo girone al purgatorio, dove metterci tutti i responsabili della comunicazione, giornalisti, politici, social, scienziati, presentatori tv, tutologi, inviati, che hanno affrontato il tema del coronavirus. Nel girone farei ascoltare e riascoltare loro per tutto il giorno e senza interruzione tutti i loro interventi che hanno creato panico sul coronavirus. Mi è piaciuto questo messaggino di Sergio e anche perché insomma ci tocca a tutti, noi cerchiamo di fare il contrario, anche se poi volenti o nolenti anche noi parliamo di coronavirus, quindi credo che un giretto in questo girone al purgatorio ce lo faremo anche Laura ed io. Esatto, Sergio ci dirà per quanto tempo, mezz'ora, un'ora, un giorno, quello che ci meritiamo. Sei ottimista, sei. Sono ottimista. Allora, vabbè, cerco di riprendere il filo della... Dove siamo arrivati? Abbiamo dato il secondo indizio, sì, l'hai dato. Sì, in signori. Questi giorni si sta dando un grande affare. E quindi do il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è Angelo Candiani, che è direttore del polo formativo Legno Arredo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come siamo arrivati a parlare di questo polo formativo? Abbiamo notato che c'è una sempre più frequente proposta di academy specializzate e specifiche per settori nei quali l'Italia eccelle ma non ha magari sufficienti professionisti. E quindi mi è venuto in mente appunto questo polo formativo del Legno Arredo. Il Legno Arredo, come sappiamo, è un'eccellenza italiana, il comparto è prevalentemente qua nella zona della Brianza, ma non solo. Allora, dottor Candiani, come sta andando questo polo, che esiste da molti anni? Via via gli studenti hanno capito che l'importanza di questo tipo di specifica formazione? Ma l'iniziativa del polo è incominciata nel 2012-2013. L'idea era quella di creare una sede apposita, attrezzata, e che potesse essere una proposta fatta da tutti i giovani di un mestiere che veniva un po' via via come abbandonato, insomma, o perlomeno meno valutato. Abbiamo utilizzato una sede provvisoria, ma nel 2018 abbiamo inaugurato la nuova sede. Dai 70 ragazzi che eravamo riusciti ad attrarre nei primi anni in una sede un po' nascosta, provvisoria, in un anno e mezzo siamo arrivati a 200. Quindi è stato ben colto, insomma, l'importanza. Questa è una delle cose più interessanti del nostro mestiere. Sembra che i giovani non siano interessati a fare un lavoro di qualità, un lavoro che dà un valore aggiunto. Invece basta avere una proposta di qualità e i giovani sanno benissimo scegliere. Tra l'altro sono di varie età, no? Perché si parte sia dopo la formazione può partire subito dopo la terza media, diciamo così, ma poi ci sono anche tutti altri settori successivi, fino appunto ai professionisti che vogliono rafforzarsi o formarsi sul marketing, quindi specifico per il settore, a un livello alto a quel punto dirigenziale. Sì, la nostra proposta è che sia una formazione a filiera, che parta dai 14-15 anni fino a quando è necessario, ma non in una maniera, come dire, volontaria, dentro un sistema. Il valore aggiunto più importante è stato dato negli ultimi anni dall'affermazione degli ITS, gli istituti tecnici superiori, che hanno dato un'indicazione chiarissima: possono essere progettati per competenze, cioè per quello che serve, e possono essere erogati a moduli, cioè attraverso un sistema di formazione terziaria. Questo dà la possibilità di modulare le competenze necessarie in base alle esigenze delle aziende. E da qui è facile capire che prepararsi anche a una formazione continua e permanente per chi già lavora, soprattutto con l'innovazione tecnologica, con l'avvento di nuovi prodotti, di nuovi mercati, rende possibile anche a chi già lavora di venire a formarsi. Carlo, non so se avevi... Se no vado avanti io. Ma ci mancherebbe altro. Io sono volentieri. Molto curiosa di questo, perché tra l'altro noi qui a Radio 24 abbiamo fatto un grosso lavoro sulle scuole e la scelta delle scuole dopo appunto la terza media. Quindi la questione ci è molto cara, perché appunto una formazione specifica di alto livello poi è anche molto richiesta. Io immagino che questi ragazzi, quando escono già dopo i primi anni, no, abbiano delle proposte di lavoro. Sì, immediatamente, ma questo tipo di formazione, sia la formazione di base che la formazione superiore, vengono svolte con un sistema duale, cioè vengono svolte con un numero di ore di tirocinio in azienda ogni anno scolastico del 30%. Il 30% è tanto, perché un anno scolastico sono 1000 ore, 300 passate in azienda, che sono da aggiungersi a quelle che a scuola passano in laboratorio. Permette alle aziende di vedere subito se i giovani hanno una passione per il mestiere, una competenza, almeno un minimo che possa permettere a loro di intraprendere una strada interessante. Ma il polo è sostenuto, diciamo, da queste aziende che poi prendono i ragazzi, cioè quindi è tutto un circuito. Sì, il polo è stato voluto fortemente dalla Federlegno Arredo. È stato come un grido di allarme, in particolare in Brianza, ma che si estende a tutta Italia, no? Perché le scuole che insegnavano questo tipo di professione sono andate via via calando, quasi come se fosse un mestiere abbandonato. Invece la tecnologia che viene... Ma che cosa lo differenzia infatti dal passato? No, non è una, non stiamo parlando del falegname, quindi che cosa è, com'è adesso? Stiamo parlando di un falegname industriale, cioè oggi la produzione, nel caso dell'arredo, ma non solo dell'arredo, viene fatta con macchine automatizzate a controllo numerico, dove viene inserita il materiale e viene lavorato fino a portare un pezzo finito, senza che debbano passare diverse fasi come era prima su diversi tipi di macchine. Certo, ma infatti quello che mi chiedevo è forse che è diventato un lavoro anche altamente specializzato, perché un tempo in fondo per fare diventare falegname bastava andare a bottega, esattamente, no? Si diceva, invece adesso serve un polo formativo del legno arredo. Mi chiedo se in realtà è una sorta di bottega 2.0, perché giustamente, come lei ci stava ricordando, rimane il contatto sia all'interno del polo, ci sono un sacco di laboratori, sia all'interno delle ore, un sacco di queste ore in realtà si fanno in azienda, giusto? È così, ma vorrei dare un po' di contenuto a quel bastava andare a bottega. Sì. Certo, bastava recarsi lì, ma poi passavano degli anni a fianco di un maestro, no? Ma questo non si è perso, cioè la conoscenza del materiale, i diversi tipi di legno. Prima avete parlato dell'importanza del legno, delle piante, ma quando finisce l'albero, quando finisce la sua vita, diventa una trasformazione, un oggetto, un qualcosa di importante, di utile, ma non tutti i legni sono uguali, alcuni sono più belli, alcuni sono più morbidi, alcuni sono più duri, alcuni sono più colorati, alcuni sono più profumati. Ha ragione, guardi, sempre leggendo quel libro di cui parlavo in testa, per esempio ho scoperto che da un certo legno, a un certo punto si sono fatte, mi sembra, le mazze da golf agli inizi, sì, perché era un legno durissimo e ci hanno messo un bel po' a trovarlo anche. Sì, ma è un mondo bellissimo da scoprire, ma questo aspetto della conoscenza da parte dell'individuo, cioè della persona, della trasformazione di un materiale, è rimasta tutta, perché le macchine eseguono quello che l'uomo dà, ma bisogna sapere cosa metterci dentro la macchina, bisogna sapere come mettere assieme diversi tipi di legno, come trasformarli, come dargli una immagine compatta, bella, affascinante. Certo. È un mondo bellissimo. Ma come sta il settore del legno italiano? Mi scusi se faccio, non so se si può fare, ma diciamo in confronto a IKEA e cinesi, ecco, perché c'è sempre un po' la sensazione di dire: ah, ma adesso nessuno compra più i mobili italiani perché andiamo tutti all'IKEA, oppure perché compriamo cose un po' più a basso costo. È vero, non è vero? Ma non lo so, non... Mi sembra che stiamo parlando di due mondi diversi, perché... Che sono prodotti diversi. Il mobile italiano è una cosa diversa da quello che si può comprare così, diciamo, self-service, immediatamente fruibile. Cioè, uno quando vuole costruirsi una casa, in base a quello che ha, sceglie il meglio. No, è vero, però credo che il mercato un po' ne abbia risentito di tutto questo, o no? Ma il mercato del mobile italiano è il mondo, no? Adesso in questi giorni la Federbeni è stata costretta anche a spostare il Salone del Mobile, ma il Salone del Mobile oggi è una delle manifestazioni più interessanti. Certo. Tra l'altro ha anche, no, contagiato altri paesi, nel senso che viene fatto anche altrove, quindi non è... Sì, sì. È il Salone del Mobile italiano, però portato all'estero direttamente. A Mosca, a Singapore. Sono felicissimo di sentirle dire così, perché spesso poi invece abbiamo gli artigiani che si lamentano, invece sono molto contento di sentirle dire: ma no, è un altro mercato, è un altro settore, non c'è il problema. Certo, ma anche gli artigiani hanno dovuto, pur in una impostazione aziendale artigiana, cioè da piccola impresa, devono fare i conti con i nuovi macchinari, con le nuove tecnologie. E quando prendono un nostro ragazzino che ha imparato a dialogare con una macchina automatica, gli artigiani capiscono che questo ragazzo dà un valore aggiunto a una storia che è già nobile. Questi ragazzi a volte, adesso non so se c'è abbastanza storico per dirlo, ma questi ragazzi a volte poi si mettono magari anche in proprio, nel senso che poi hanno uno spirito anche imprenditoriale? Come lei ha detto, gli anni sono pochi, ma il desiderio che i ragazzi hanno ce lo comunicano, cioè è comunicato in continuazione. I ragazzi imparano questo mestiere dicendo: voglio impararlo e voglio mettere su una mia attività, voglio mettermi in proprio. Ma una cosa bella è che noi possiamo fare anche degli anni in apprendistato di primo livello. Quando i ragazzi compiono 16 anni possono fare metà scuola, metà lavoro, con un contratto di lavoro di apprendistato. Alla fine le imprese vogliono tenerli, ma i ragazzi vogliono tornare e proseguire la scuola e specializzarsi ancora di più. Ed è una cosa bella anche perché le aziende dicono loro: ma quando hai ma finito io ti stavo aspettando. Ma mi viene un'ultima, veramente l'ultima curiosità prima di lasciarci. La scuola è ovviamente è localizzata appunto nella provincia di Milano, no? Non so se è Monza Brianza. Ma chi viene da fuori regione, quindi da più lontano, lì può disporre magari di servizi? Mettiamo che interessi a un ragazzo dalla Toscana, non può andare avanti e indietro, chiaramente. Collegi, allora, non lo so. Innanzitutto la sede l'abbiamo costruita a fianco di un nodo ferroviario importantissimo all'entrata sul Seveso, che collega diverse tratte ferroviarie da Milano verso nord. Quindi siamo a 30 minuti scarsi dalle stazioni o di Cadorna o di Garibaldi o di Povisa. E siamo in un punto dove c'è una concentrazione di trasporti. In loco si possono trovare degli alloggi, ma ripeto, non siamo distanti da Milano. Noi già adesso ospitiamo dei ragazzi che vengono da altre regioni italiane, anche dal sud. Ok, quindi insomma si può trovare una sistemazione anche per chi viene da lontano, ecco, perché a una certa età magari vivere da soli a Milano i genitori non certo, è difficile, non ce lo si può permettere. Non ce lo si può permettere. Grazie molte, allora buon proseguimento, buon lavoro. Angelo Candiani, che è il direttore del polo formativo Legno Arredo, abbiamo una piccola pausa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed ecco un altro concorrente per il nostro quiz. Si chiama da Ragusa, si chiama Mimmo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, secondo lei chi è il personaggio della settimana? Mi sembra Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile. Angelo Borrelli, e qual è la notizia? Beh, tu dici giustamente in questo momento. Angelo Borrelli è stato al centro di tutto in tutta la settimana, e per tutto quello che ha dovuto gestire, con modo come l'ha gestito, per le decisioni che ha dovuto prendere assieme al governo e assieme anche ai presidenti delle regioni. È tutto corretto, noi le chiedevamo se aveva una parte specifica che voleva sottolineare di notizia proprio su Borrelli, ma la notizia c'è, non c'è dubbio, possiamo sentire il notaio. La notizia c'è, Borrelli sicuramente si sta dando un gran da fare e sta facendo tanto, lo salutiamo e lo ringraziamo, non era il personaggio che avevamo scelto e ringraziamo anche lei. Grazie Mimmo, grazie a lei, buona giornata. Diamo il terzo indizio? Diamo il terzo indizio, sì. Dai, lo dico io? Certo. Allora, è un'eccellenza italiana da record. Quindi ha un futuro pieno di sfide, si sta dando un grande affare, è un'eccellenza italiana da record. Dovete metterli insieme tutti e tre e indovinare. 824 0024, abbiamo ancora una discreta quantità di tempo per i vostri interventi. Nel frattempo ci colleghiamo con la prossima ospite, Gregoria Fava, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ora vi spiego tutto, è una dipendente di un'azienda che si chiama Automa. Automa è con l'H in mezzo. Sì, no, con l'H in fondo. M-H e mezzo. Automa. Sì, ma. Vabbè. Automa, ci dice lei di cosa si occupa? Non è il soggetto della intervista, ma così intanto si scioglie e si prepara, diciamo, a quello che ci dovrà raccontare dopo. Automa fondamentalmente sviluppa, progetta, installa, collauda, insomma, magazzini automatici a livello mondiale. Esattamente. Quindi ha decine e decine di dipendenti, non esiste solo in Italia, ma come diceva lei lavora anche a livello internazionale, ma noi ne parliamo in particolare per una azione specifica che ha fatto nei confronti delle mamme, che sono una bellissima notizia. Una bellissima notizia, perché voi avete delle notevoli facilitazioni, una riduzione del 25% dell'orario di lavoro a parità di stipendio per tutte le madri con figli di età compresa tra 1 e 10 anni. Non è che siete obbligate, però potete goderne, giusto? Credo che stiano arrivando dei curriculum in questo momento, dopo che Laura ha letto questa notizia. Credo che proprio stiano arrivando delle telefonate di candidate. Di candidate, no, anche perché appunto è una scelta che una dipendente di questa azienda può fare. Lei in particolare è un ingegnere, ingegneria meccanica, giusto? Confermo. Ha due figli che sono due gemelli di 6 anni, quindi ha colto questa opportunità, corretto? Ma allora diciamo che in fase di colloquio, perché io lavoro da febbraio in azienda, Automa, freschissima, in fase di colloquio io ho sempre detto che avevo questi bambini e diciamo i due bambini e Automa mi ha detto: guarda che c'è questa possibilità anche di avere questa riduzione di orario per la famiglia. La notizia in fase di colloquio o dopo? No, dopo, dire la verità, dopo mi hanno comunicato. Io avrei scelto Automa a prescindere ovviamente, certo. Diciamo da questa riduzione di orario, e Automa mi ha detto, quando ho confermato la volontà di poi lavorare con loro, guarda che c'è questa possibilità. E poi con due gemelli è il 50% in meno. No. Sto scherzando. No. Sto scherzando. Ovviamente. No, volevo entrare in realtà nella questione, nel senso che volevo capire come si svolge, cioè, che cosa vuol dire lavorare il 25% in meno, ovvero se in realtà voi avete un lavoro che è fatto sugli obiettivi e quindi lei garantisce gli stessi obiettivi dei suoi colleghi che non hanno figli, oppure se veramente lavora il 25% in meno e questo non le viene mai imputato. Allora, diciamo che su questo aspetto dipende ovviamente dalla mansione che uno ha, nel senso che io posso lavorare a obiettivi mentre un'altra mia collega no, diciamo non va a influire questo tipo di discorso sulla riduzione orario che ha la dipendente. La dipendente che ha bambini in età scolare fino a 10 anni ha diritto alla possibilità di lavorare 2 ore in meno al giorno. Poi certo. Ecco, diciamo che perché esatto, non si viene può fatto imputare... in maniera giornaliera, cioè si 2 ore in meno al giorno, non è che c'è un giorno in cui si sta a casa. No, assolutamente no, okay. Diciamo comunque deve essere sempre garantita la presenza. Ovviamente questo cosa permette però a noi mamme di essere un po' più tranquille. Quindi la mattina non eiettare i bambini dal seggiolino e portarli a scuola, ma avere la possibilità di portarli con più calma, per esempio nel mio caso specifico, e nel caso anche fermarmi 5 minuti a bere un caffè con una mamma e confrontarmi su delle dinamiche che magari a volte possono sfuggire, prese da mille certo. altre situazioni. Giustissimo, ecco. Direi che ha fatto due esempi veramente importanti. Sì, importanti, perché sennò uno magari si dice ma perché lavora? E invece proprio questo, che può bastare quella mezz'ora in più di modo che uno si confronta con le altre mamme, sennò sì. È sempre la mamma che lavora e non c'è mai. Assolutamente. Sì, così. Tra l'altro io pensavo nel mio caso, mi ricordo benissimo, insomma, dipende da che distanza uno ha dal lavoro, se è pendolare su un'altra città o no, ma se tutto accade in una area molto circoscritta ti consente di andare a lavorare mentre il bambino è a scuola senza appunto iettarlo la mattina e mandare qualcun altro a prenderlo il pomeriggio. Assolutamente, è così. E diciamo permette una serenità. Una certa serenità. Una serenità, ma non andando neanche a inficiare su quelle che sono le dinamiche familiari legate a quelle che sono lo stipendio e gli impegni presi in una famiglia. Perché ci sono delle mie amiche piuttosto che lavorano meno 6 ore, ma vengono retribuite meno. Certo. Quindi vanno a influire notevolmente sull'andamento familiare. Ecco, questo secondo me. Questo è il punto, importante. È verissimo, perché uno può decidere anche di prendere un part time, solo che poi magari sta di più con i propri figli, ma non hai soldi per pagargli la scuola. Quindi, o il mutuo, certo. I vari che ci sono. Certo, certo. Ci mancherebbe. Ci sono un sacco di spese. Le volevo chiedere una cosa, ma lei da ingegnere diciamo si porta anche del lavoro a casa e quindi magari in queste 2 ore che si gestisce con più facilità perché giustamente può stare con i suoi figli, poi ha comunque, non dico 2 ore, ma un'oretta in più da lavorare a casa o in realtà veramente lavora 6 ore invece di 8? Allora, non c'è una regola, non può esserci una regola, soprattutto in un lavoro come il mio, dove magari si lavora anche con l'altra parte del mondo e quindi magari ci altri sono orari. Anche dei fusi orari, certo. Piuttosto che non c'è una regola, c'è la giornata che è possibile, quindi un po' più tranquilla, mettiamola così, e c'è la giornata che non è possibile. Quindi capita, giustamente può capitare. Può capitare, ma penso un po', adesso diciamo un po' in tutti i lavori, anche se lavori 8 ore. Esatto, è lì che volevo arrivare. Siamo troppo social ormai. Sì, poi a volte è proprio una specie di dipendenza che uno ha attraverso il telefono, per l'appunto il computer, che ti viene quella curiosità di andare a vedere se ti hanno risposto, se ti hanno mandato, e in realtà non è chiesto dall'azienda questa cosa, sei tu che alla fine ce l'hai, avendo lo strumento in mano ti vien voglia. Assolutamente condivido. Quindi bisogna imporsi, bisogna la regola. Bisogna imporsi di staccare e di spegnere il cellulare, ma no, è difficile, diciamo. Verissimo. È difficile. Ma e invece gli uomini che hanno figli non hanno questa possibilità? Attualmente no. Diciamo i cosiddetti che mammi attualmente no, non è possibile. e che sia mai nel futuro, ma non, attualmente no, non è così. Va bene, allora vedremo, vedremo se ci saranno delle evoluzioni, ce le comunicherete. Grazie a Gregoria, grazie Fava a di Altoma, neodipendente, con questa bella sorpresa quando poi è andata a firmare il contratto. Mi sembra una grandissima possibilità, anche perché di nuovo forse ci si rende conto che anche in 6 ore si riesce a fare poi il lavoro delle 8 ore, che la maggior parte, in moltissimi lavori, non è che è quante ore, a meno che tu non lavori alla catena di montaggio in fabbrica, che allora ogni ora produci tot, ma in realtà se tu sei più tranquilla per i tuoi figli e lavori un paio d'ore in meno, mi sembra una grande nel soluzione. Sì, win-win. Vorrei chiedere a Chiara da Vercelli invece che quale pensa che sia il personaggio della settimana. Allora, Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Secondo lei chi è il personaggio della settimana? Ho pensato a Federica Brignone. A Federica Brignone, come mai? Cosa è successo? Dunque lei è in cima alla classifica, mi pare, di combinata di Scialpino e tutti si aspettano che vinca finalmente la Coppa del Mondo, per cui insomma è una cosa che dovrebbe succedere nel giro di poche ore forse. Allora sì, corrisponde, tutti gli indizi corrispondono. Cosa ci dice il notaio? Ci dice che anche solo per scaramanzia noi aspettiamo, aspettiamo e non vogliamo assolutamente, speriamo di portare non molto gufiamo, bene, esatto, esatto. Speriamo di portare molto bene. Però ci può chiamare settimana prossima nel caso che vada tutto bene. Esatto. Grazie. Grazie, arrivederci, grazie, buona domenica. Chiara, abbiamo la viabilità, tra poco. Si può fare. E niente, con l'ultimo indizio abbiamo scatenato gli ascoltatori che si sono prenotati in massa all'824-0024. Vediamo chi c'è adesso. C'è Flavio, buongiorno. Ciao ragazzi entrambi. Ciao Flavio. Allora, grazie, buongiorno. Milano, giusto? Sì, provincia. Provincia, provincia, okay. Di Milano, sì. Sentiamo un po'. Ho avuto un flash, mi è venuto in mente, l'altra sera ho cambiato canale sul canale sportivo e ho visto proprio in quel momento lì che aveva vinto la gara Filippo Ganna su un pistard, su un ciclismo su pista all'inseguimento e anche ha fatto il record del mondo. Per cui penso che sono sfide continue, tra l'altro sull'inseguimento. Quindi la sua risposta è Filippo Ganna. Filippo Ganna, sì. Ed è anche la risposta giusta. Esatta, l'abbiamo lasciato parlare perché è informatissimo. Esatto, informatissimo. E poi volevamo anche dare la sensazione che noi non conoscessimo Filippo Ganna, invece è esattamente il nostro personaggio. È grandissimo, è il quarto titolo iridato dopo quelli del 2016, del 2018 e del 2019. Ha medaglia d'oro nel torneo dell'inseguimento ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Berlino, che sono come quelli che lei ha visto, esatto, cambiando canale, e soprattutto è atteso alla conferma alle Olimpiadi e sogna di abbattere il muro dei 4 km in 4 minuti, il record del mondo, ovvero 4 minuti e un secondo e poi dei millesimi, lo ha stabilito esattamente l'altro ieri, mentre lei cambiava canale, credo. Esatto, esatto. Tra l'altro ho beccato il suo sorriso mentre il suo... diciamo chi ha battuto era disfatto proprio, completamente distrutto dalla fatica. Vabbè, probabilmente speriamo che quello distrutto sia il personaggio della settimana di un'altra trasmissione, non so, che si chiama I Perdenti. E comunque noi ci portiamo a casa invece il nostro Filippo Ganna, e lei si porta a casa 2 biglietti per la mostra di Erwitt al MUDEC di Milano. La mostra finisce a fine mese, non speriamo, riapre, esatto, non appena riapre, e se no ci metteremo d'accordo per darle dei biglietti di un'altra mostra. Perfetto, grazie a voi. Grazie, grazie a lei, Flavio, moltissimo. Buona domenica, grazie, grazie molto. Premio L'altro pianeta. E siamo per l'appunto giunti al gran finale con il premio L'altro pianeta, che questa settimana consegniamo nelle mani di Andrea Strizzolo, titolare e ideatore di Roteax Go. Ci colleghiamo quindi con Udine. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Buongiorno. Allora, che cos'è Roteax Go? È un bellissimo sistema che, diciamo, entra nel circuito dell'economia per l'appunto circolare, però vorrei che lei un po' ci spiegasse, ecco, stiamo parlando di plastiche innanzitutto, plastiche che non avrebbero avuto altro utilizzo, no? Esatto. Noi ci occupiamo di questo affascinante materiale che tra l'altro ha rivoluzionato i prodotti e i mercati, ma che oggi è diventato un problema per il nostro paese. Questo è un materiale che rappresenta il 95% dei rifiuti presenti oggi in mare. Quindi è un materiale che l'Europa, essendo il secondo paese al mondo nella produzione di materiale plastico dopo la Cina, solo un terzo di questo materiale prodotto viene riciclato. Nel mondo, invece, viene riciclato solo il 10-15% della plastica immessa al consumo. Questo significa che in 40 anni di consumo di materie plastiche ha avuto una crescita esponenziale, arrivando ad oggi un consumo annuale di circa 400 milioni di tonnellate, con un incremento annuale di circa 20 milioni di tonnellate. E quindi in questi numeri, no, vi siete inseriti voi con un progetto che voleva, diciamo, utilizzare una serie di plastiche che non potevano essere altrimenti riciclate. Esatto, questo significa che circa 340 milioni di tonnellate vengono smaltite ogni anno nel pianeta perché non riutilizzabili. Per rendere l'idea, ogni anno viene smaltita una quantità di plastica nel mondo corrispondente ad una superficie grande tanto quanto l'Italia. E viene smaltita come questa che non si ricicla? Viene buttata nell'inceneritore? Bisogna trovare la collocazione nel nostro pianeta dove metterla, quindi su 400 milioni solo 60-70 milioni di tonnellate vengono riciclate, il rimanente deve essere da qualche modo collocato. Certo. Per ora è ammonticchiato, quindi o incenerito, cosa succede adesso di questo avanzo? Viene incenerito laddove è possibile, ma non ci sono impianti. E altrove viene ammonticchiato, quindi in una discarica? Dicembre 2017 tutto il materiale non riutilizzabile, non facilmente riutilizzabile, era destinato al mercato cinese. La Cina dal 1 gennaio 2018 ha chiuso le frontiere. Sì. Questo ha generato un grande problema nel mondo per l'utilizzo di questi materiali che non sono di facile soluzione. Discariche non ci sono, la Comunità Europea fa divieto di smaltire questi materiali ad alto potere calorifico nelle discariche, inceneritori a sufficienza non ce ne sono e conseguentemente siamo in attesa di trovare delle soluzioni per utilizzare questo materiale come una terbia. Noi una piccola soluzione l'abbiamo trovata. Mm-hmm. E che cosa? Esatto, prego. Noi ci siamo ispirati chiaramente alla natura, a quello che succede in natura. Abbiamo iniziato a valutare quello che può essere una soluzione di questo materiale plastico così indifferenziato, utilizzandolo sotto forma del conglomerato, come conglomerato plastico, ovvero in natura le rocce sedimentate, che sono frammenti di materiali inerti, vengono tenuti insieme da un materiale cementante, formando così il conglomerato roccioso. Da questo deriva concettualmente il conglomerato cementizio, conglomerato bituminoso, che oggi sono utilizzati per le costruzioni di edifici e di strade. Più di 20 anni fa quindi ci siamo posti una domanda: è possibile realizzare un conglomerato plastico per iniettarlo all'interno di uno stampo e generare dei prodotti durevoli, resistenti e ecosostenibili? E scusi, quindi, se la interrompo, ma perché voi avete fatto un processo di 20 anni, quindi la risposta è sì, questo è sì, possibile. Si può fare, è possibile. E voi l'avete fatto, non solo si può fare, giusto? Noi l'abbiamo fatto, quindi dopo 20 anni di studi e di ricerche, è stato un lungo percorso, interamente finanziato da noi con risorse proprie, non abbiamo utilizzato finanziamenti pubblici di alcun tipo, e nel 2019 abbiamo coronato questo sogno, che è stato per noi veramente premiante. E che cosa producete con questa plastica? Beh, attualmente dopo questo lungo percorso lo abbiamo testato con dei prodotti che sono tecnicamente molto difficili da realizzare, forse prodotto in plastica più difficile, che sono dei pallet, questi bancali per il trasporto delle merci, che oggi vengono realizzati in legno. Questo è un prodotto tecnicamente difficile perché è sollecitato con sollecitazioni statiche dinamiche con la movimentazione delle merci e quindi è soggetto a normative stringenti sui carichi sospesi, sulla sicurezza del lavoro, e quindi è prodotto che realizzato con materiali cosiddetti impossibili da utilizzare, per fare un prodotto il più difficile che possa essere realizzato, per noi è stato un grande successo. Ammetto l'ignoranza, pensavo che fosse un prodotto semplice il pallet, nel senso che pensavo... No, uno dice, vabbè, il pallet è quello che sta sotto i bancali, giusto? Esatto, esatto. E invece ci sta dicendo che è stato molto difficile. Per noi sì, riteniamo che questo sia il prodotto innanzitutto più ben normato a livello internazionale, con normative tecniche UNI, EN, ISO, e quindi riconosciuto a livello standardizzato globale. Ma soprattutto è un prodotto che ha delle sollecitazioni importanti e deve avere una resistenza certificata. Oggi tutti i magazzini automatici, quindi le merci vengono trasportate su pallet, e tutti i magazzini automatici vengono posizionati su piani, su strutture che sono autoportanti. Questo significa che se un pallet si rompe al decimo piano, certo, i magazzini fa collassare. Viene giù tutto. In più aggiungo, per noi, mi scusi, per noi meno tecnici, sì, e più ignoranti che sappiamo che oggi è domenica, che il volume del mercato mondiale dei pallet nel 2019 sono 5 miliardi di pezzi. Sì. A me mi ha stupito moltissimo, nel senso che praticamente ogni essere umano ha un suo pallet. Sì, più o meno. E ho visto che nel 2025 infatti saremo a 7 miliardi, esatto, di pallet. Meno male che non mangiano i pallet. No, però a me sembra interessante, essere... perché se non ho capito male, il 90% di questi pallet è fatto in legno, esatto, e invece, grazie alla vostra invenzione, si potrebbe arrivare a farli in plastica, e addirittura i vostri pallet, una volta diciamo arrivati a fine vita, dopo 10 anni, possono essere nuovamente riciclati mediante sempre questo vostro sistema, è giusto? Esattamente. Oggi, per poter far sì che non vengano smaltite queste plastiche, bisogna solo realizzare dei prodotti che il mercato li recepisca. Quindi il pallet è uno dei prodotti che ha un largo consumo industriale, con quantità enormi, e quindi con capacità di recepire materiali, prodotti realizzati con materiali interamente riciclati, e quindi consumare grandissime quantità di plastica. Il nostro processo, noi siamo stati molto attenti nel generare, sì, un'economia circolare, quindi generare un flusso di materiali che alla fine del ciclo di vita del prodotto possa ritornare nel ciclo di produzione che lo ha generato. Quindi le macchine che abbiamo messo a punto praticamente non hanno emissioni di gas a effetto serra in atmosfera, si alimentano esclusivamente da materiali riciclati, quindi non utilizzano risorse naturali di alcun tipo, non generano rifiuti perché poi si alimentano dei rifiuti, non consumano acqua e hanno un risparmio energetico del 30%. Quindi è un processo totalmente ecosostenibile, in quanto non impatta sull'ambiente, per realizzare un prodotto ecocompatibile, ovvero che oltre a dare più durata rispetto al pallet del legno nel caso, quindi dura 100 volte di più, quando giunge a fine ciclo di vita, questo pallet può essere riciclato nello stesso processo che lo ha generato. Quindi non ha impatto ambientale poi per il suo smaltimento. Ed è il motivo per cui avete vinto il premio, questo. Benissimo. Questo nel 2010 abbiamo avuto... adesso il premio nostro, diciamo, perché entriamo all'altro pianeta. Però adesso ci dobbiamo salutare, e io ringrazio Andrea Strizzolo di Plaxtex, che ci ha appunto spiegato come funziona Roteax Go e da dove è arrivato. Ci salutiamo, Carlo, salutiamo Carmelo Lauricella, salutiamo Lorenzo Nespoli e ovviamente tutti coloro che hanno partecipato a questa puntata: Danilo Di Trani, Edoardo Lavezzari, Andrea Piana, da Laura Bettini. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Carlo Gavardini, e ci sentiamo settimana prossima, sabato e domenica alle 8:30. Si può fare. Ciao.